Linee d'ombra di Matteo Caccia. Decisamente sono stati degli anni molto divertenti. Era un po' come essere dentro una puntata di Big Bang Theory ogni giorno. Li ricorderò per tutta la vita, insomma. La leggenda narra che in cucina ci sia un'enorme affettatrice appositamente costruita per tagliare delle sottilissime fettine di carne direttamente da una coscia di mucca. Storie di amici sul confine sloveno e di un camper a noleggio in una puntata che si intitola Amici miei. Buongiorno. Buongiorno. Ma non avete visto i cartelli di divieto? Mi scusi, antenni come se fosse di scappellamento terapia tapioca e scappellamento di forestieri. Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di divieto sono internazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Ecco. Grazie a lei. Lei è il signor Verdirame Augusto di Brescia? Sì, è Verdirame. Io mi chiamo Necchi. Necchi? Allora questo non è la sua patente. Cosa dici? Mi faccia vedere. Guardi, guardi. Ma questo è un mistero. Aspetta, non l'avevi dimenticata a casa? Su, ricostruisci con calma, da qua. Ricostruisci? Io a Porta Prato mi sono accorto di non avere la patente. Sono tornato a casa. Ho claxonato parecchio perché la mia moglie poverina dormiva. Poi gli ho detto di buttarmi il portafoglio. Ma buttato il portafoglio e... Ma scusa, di solito dove lo tieni il portafoglio? Dove lo tengo? Nella tasca posteriore dei pantaloni, come tutti. E i pantaloni, quando te li togli, dove li metti di solito? Dove li metto? Sulla seggiola, accanto al letto, come tutti. Appunto. Come il signor Verdirame Augusto, da Brescia. Cosa c'entra? Il signor Verdirame Augusto li metterà sulla seggiola accanto al suo letto, a Brescia, a casa sua. Quando è a Brescia, sì. E quando è a Firenze, li mette sulla tua seggiola. Mi sembra tutto chiaro, no? Beh, vede, signora guardia, scusi, lei avrà capito, si tratta di un caso delicato, c'è molto comune, sì, ma uno delicato. Scambio, sì. Sì, sì, vista la situazione, ci diamo un occhio. Le avete riconosciute? Queste sono le voci, e le voci originali, perché quando prendiamo dei film stranieri sono spesso le voci di doppiatori. E queste invece sono le voci originali degli attori protagonisti di quel film straordinario che era Amici miei, che da sempre per tutti rappresenta una generazione di amici, rappresenta un modo di stare insieme anche oltre l'infanzia. C'è questa idea per cui quando si diventa grandi ci si perde di vista, per cui tutte le storie che ci arrivano, molte storie che ci arrivano legate al tempo che è passato, legate alla gioventù, racconta di viaggi, ad esempio questa è una di quelle puntate, chiaramente racconta di rapporti con amici che poi si sono persi, poi chi lo sa, e poi è andata così, poi siamo cresciuti, ci siamo sposati, eccetera eccetera eccetera. Amici miei invece, che certo è un film, ma ci ricorda come quel rapporto di amicizia possa continuare anche dopo il matrimonio, dopo i figli, dopo il lavoro. Probabilmente ci vuole impegno, non ci si può semplicemente affidare al tempo libero, che è meno, perché tutti quanti lavorano, tutti quanti hanno cose da fare, mentre quando si è giovani si ha più tempo a disposizione. Eppure io ho sempre visto quei film con quel messaggio lì, si può prendere tempo alle proprie famiglie, si può prendere tempo al proprio lavoro per stare un po' con i propri amici, e vale questo ovviamente per amici, amiche, uomini, donne, non fa alcuna differenza. Certo, Amici miei era un film di maschi, di uomini, era un film che probabilmente aveva in sé anche una parte maschilista, fortemente maschilista, ma di fatto parla di amicizia, e parla di questo proprio la puntata di oggi, che appunto si chiama Amici miei, perché le storie raccontano di due episodi che sono diversi tra loro, come sempre facciamo, sono lontani nel tempo e nello spazio, ma parlano di viaggi insieme a un gruppo di amici, e quello che succede nei viaggi con i gruppi di amici sono sempre delle cose che poi diventano storie, no? Sapete quando si è passato quel tempo lì, il rischio è quello di diventare aneddotici, cioè quando si è passato il tempo in cui ci si frequenta da amici e si fanno le cose, il passaggio successivo è quello di incontrarsi una volta ogni tanto per cena e non fare più le cose, ma raccontarsele più e più volte, per cui a un certo punto non diventa più un raccontamelo che non me lo ricordo, perché tutti ci raccontiamo di quella volta che quello è andato in bagno, eravamo al ristorante, poi siamo andati al campeggio, è andata così, ce la ricordiamo tutti, semplicemente abbiamo voglia di riviverle attraverso la storia, perché facciamo di meno e ci raccontiamo di più. Ecco, queste sono proprio quelle storie lì. Poi non so se i due protagonisti, lo chiederò quantomeno, diciamo, alla prima protagonista della storia che ci ha mandato questo racconto, Ottavia, questo racconto che parla di un pranzo tra amici a Gorizia a mangiare a Lubianska, poi capirete che cos'è. Lo chiederò se si sentono ancora, però tant'è, insomma, le storie di oggi ci raccontano di quello, ci raccontano di come quando si fanno le cose in gruppo, quelle cose spesso fanno esplodere delle cose, fanno succedere delle cose e quelle cose rimangono nella nostra memoria. Si chiama raccontare, si chiamano storie ed è quello che facciamo tutti i giorni, quindi mettetevi comodi, noi cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Avevo cominciato da poco il mio dottorato e condividevo un appartamento con tre ragazzi, Zimmer, Berna e Mick, tutti dottorandi o postdoc. Vivere in quell'appartamento mi ha fatto avvicinare ad un mondo che definire nerd è riduttivo, ma è stata anche un'esperienza estremamente divertente. Ad esempio, la suddivisione delle faggende domestiche quotidiane era definita con giochi e regole molto complicati, in cui per vincere non bisognava solo avere fortuna, ma anche pensare ad un'elaborata strategia per tenere conto di un'infinita serie di variabili e possibilità. Questa modalità regolava tutti gli aspetti della vita di appartamento, come ad esempio chi avrebbe dovuto lavare i piatti, oppure chi fosse il vincitore del torneo di calcio balil, cui seguiva un aggiornamento del foglio di calcolo che registrava tutte le statistiche di ogni giocatore. Si sa che in Italia la ricerca non paga molto, perciò cercavamo di fare economia dove potevamo, dal riscaldamento, ahimè, al cibo. Per bere uno spritz, la scelta ricadeva sul bar che offriva la maggiore quantità di cicchetti gratuiti. Quando andavamo a fare la spesa, studiavamo attentamente le offerte della settimana e compravamo rigorosamente le confezioni famiglia, facendo attenzione a qualsiasi raccolta punti che potesse farci vincere un set di cucchiaini o un attrezzo da cucina. Eravamo tre dottorandi e un assegnista di ricerca, cioè un postdoc, qualcuno che ha finito il dottorato e sta facendo un altro contratto di ricerca, appunto, e in diversi ambiti, perché c'era chi studiava fisica, chi ingegneria chimica, io ero più biologia, biotecnologie, e quindi in realtà lavoravamo, cioè avevamo uno stipendio, però le borse di dottorato e gli assegni di ricerca in Italia non sono esattamente copiose, ecco, quindi facevamo anche molta attenzione all'economia quotidiana. Un giorno Zimmer propone di organizzare una trasferta a Gorizia per andare a mangiare alla trattoria da Gianni, famosa per l'abbondanza dei piatti e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. La salivazione comincia ad attivarsi quando inizia a descriverci il menù, caratterizzato da una scelta pressoché infinita di tris di primi, ma soprattutto della mitica Lubianska, un'enorme cotoletta ripiena di formaggio e prosciutto. E quando dico enorme, significa più grande di una pizza battuta. La leggenda narra che in cucina ci sia un'enorme affettatrice, appositamente costruita per tagliare delle sottilissime fettine di carne direttamente da una coscia di mucca. Questi racconti ci convincono che i 160 chilometri che ci separano da Gorizia sarebbero sicuramente stati ricompensati dall'abbondanza di cibo ad un prezzo economico. Vista la grande fama di questa trattoria, provvediamo a prenotare un tavolo con largo anticipo, in modo da poter organizzare per bene la nostra trasferta. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore e insegue una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie gli ubriachi sulle strade che hanno scelto, delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore, non so se ancora desto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Yeah. Io ora mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Le carte, poi il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta, non ho utopie da realizzare, stare a letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Una sera Zimmer ci annuncia che al pranzo ci raggiungeranno anche alcuni colleghi di Trieste e che è già partita una sfida a chi mangerà più lubianske. Io alzo gli occhi al cielo e per l'ennesima volta mi chiedo se questo tipo di rivalità sia l'evoluzione moderna del bisogno ancestrale di fare pipì per marcare il territorio e decidere chi sia il maschio alfa. I ragazzi cominciano a discutere, decidono addirittura che una settimana prima del pranzo si sottoporranno ad un'apposita dieta a larga stomaco. E non scherzano. Durante i 7 giorni precedenti alla trasferta a Gorizia non mangiano altro che chili di pasta e riso in bianco. Arriva quindi l'atteso weekend autunnale, designato per il pranzo gargantuesco. Per intraprendere il lungo viaggio prendiamo la mia auto, che è poi l'unica a disposizione. Dopo un paio d'ore di strada arriviamo a destinazione, ci incontriamo con i colleghi triestini di Zimmer e ci sediamo a tavola. Sinceramente non ricordo chi abbia vinto, ma ricordo che sul tavolo non c'era quasi spazio per quei piatti giganteschi pieni di cibo. Figuriamoci nei nostri stomaci. Una volta finita la grande abbuffata, con lo stomaco pieno di cibo e la mente annebbiata, ci dirigiamo verso la macchina, soddisfatti del pranzo e soprattutto del suo vantaggiosissimo prezzo. Allora, saremo stati almeno una 15 di persone, quindi una bella tavolata. E diciamo che il piatto principale, quello che bisognava assolutamente ordinare e mangiare, era la famosa lubianska, cioè una specie di enorme cordon bleu, spero che mi perdonino le persone della Slovenia. E quindi c'erano queste specie di cotolette giganti ripiene di prosciutto e formaggio, appunto, che occupavano veramente un piatto enorme. Quindi questa era la cosa da ordinare assolutamente. E poi un'enorme quantità di, appunto, tris di primi, in cui in realtà erano praticamente 3 porzioni singole di 3 primi diversi servite su un unico piatto, e tutte le corni e le cose che si possono immaginare ad un prezzo molto vantaggioso. A questo punto però vogliamo approfittare appieno del lungo viaggio e decidiamo di varcare il confine e andare in Slovenia per fare il pieno di gasolio, dal momento che lì costa leggermente meno che in Italia. Guido per una decina di minuti e troviamo un benzinaio self-service. Mi avvicino alla pompa e Mick scende per effettuare il pieno. Prende la pompa, quella nera, la infila nel bocchettone dell'auto e aspetta che il serbatoio si riempia. Paghiamo e ripartiamo alla volta di casa. Dopo appena 50 metri però, la macchina comincia ad arrancare. Io non capisco che cosa stia accadendo. Sto premendo sull'acceleratore, la marcia è quella buona. Accosto e metto le 4 frecce. Ed è a quel punto che la nebbia della digestione viene spazzata via da un piccolo pensiero che comincia ad insinuarsi nella mia mente. E poco alla volta quel pensiero si fa più chiaro e viene confermato quando torniamo alla pompa di benzina, a piedi. Evidentemente la pompa nera non corrisponde al gasolio in Slovenia. Abbiamo fatto il pieno di benzina in un motore diesel. Non so dire di chi sia stata la colpa, se mia, che mi sono fermata davanti a quella pompa, o di Mick, che ha fatto il pieno. Going home, and I'm running home down the gasoline alley where I was born. Si intitola la puntata di oggi Amici miei, e avrete capito il motivo per il quale l'abbiamo intitolata così, perché la storia di Ottavia e la storia dei suoi amici che addirittura si preparano lo stomaco con una dieta ad hoc per poter mangiare più lubianskie possibile sembra veramente in qualche modo uscita da uno di quegli splendidi film che erano appunto Amici miei. Pronto, ciao Ottavia, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Ottavia, innanzitutto grazie mille per averci concesso questa telefonata, che credo sia da quando è nata Linea d'Ombra, cioè da qualche mese a questa parte, la telefonata più remota che stiamo facendo, perché tu in questo momento ti trovi in... In Guyana Francese, infatti siamo in collegamento via Skype, motivo per cui magari sentirete la voce di Ottavia diversa da come di solito rispetto alle telefonate. La Guyana Francese, quindi parliamo di America Centrale. Del Sud. Quindi Guyana Francese... si parla evidentemente francese, immagino, essendo un territorio francese, dico bene? Sì, esatto. Ma soprattutto la domanda che viene spontanea è che cosa ci fai in Guyana Francese, Ottavia? Mi sono trasferita per lavoro, perché faccio ricerca e qui in particolare faccio ricerca sulle zanzare. Quindi essendo in Amazzonia ce ne sono molte di zanzare, per cui è diciamo terreno fertile per le nostre ricerche. Tu sei biologa, giusto? Sì, biologa. Che clima c'è in questo momento in Guyana? Tra i 27-28 gradi, dovrebbe essere la stagione delle piogge, ma stanno un po' tardando, diciamo, quindi per fortuna c'è il sole, fa caldo. Ma si sentono anche degli uccellini in sottofondo? Sì, perché sì, è un sottofondo che spesso c'è da queste parti. Ma scusa Ottavia, poi chiudiamo il tema Guyana e andiamo alla storia, ma io ovviamente ti immagino una sorta di capanna in legno con i tetti in palma, ma non è così? No, vivo in un appartamento, io ho la fortuna di avere quattro mura e un tetto sopra la testa, però diciamo che se ne vedono di costruzioni, ecco, di fortuna. Ecco. Come si chiama la città in cui vivi? Si chiama Cayenne, famosa per il peperoncino. Certo, no, poi è famosa anche perché era la Cayenne francese dove mandavano i carcerati quando le avevano fatta veramente grossa. E sei lì da quanto, hai detto, scusami Ottavia? Sono arrivata a novembre 2017, quindi 2 anni e mezzo. Vabbè, il sottofondo è straordinario. E quando, quando torni in Italia? Finisco il contratto a fine anno. Ok, ti ci trovi bene in Guyana, sì? Sì, è un po' particolare come ambiente, diciamo è una sfida, ecco, però insomma non è proprio così remoto, ecco. Ricordo solo che quando ho contattato la mia attuale capa e ne ho parlato a mia madre, la prima cosa che mi ha detto è stata: vabbè dai, cerca un altro posto. Le aspettative non erano altissime, però in realtà, beh, dal punto di vista lavorativo è proprio, sì, mi trovo molto bene. Ok, tu sei veneta, mi sembra di capire dall'accento. Sì, di Treviso. Senti, cosa hai scoperto sulle zanzare in questi 2 anni? Allora, io in realtà lavoro sui batteri che vivono nell'intestino delle zanzare. Okay. E cerchiamo di capire come questi influenzano un po' la fisiologia della zanzara, ma anche l'interazione con i vari patogeni che la zanzara può trasmettere. E, ho scoperto, ad esempio, che i batteri sono essenziali per lo sviluppo delle larve di zanzara, perché forniscono le vitamine necessarie alla larva per crescere. Senti Ottavia, te lo dice uno che è nato nella provincia di Novara, dove in sostanza le risaie stanno intorno a tutti noi, e io sono cresciuto con delle zanzare importanti in casa. Io ho sempre pensato: che senso hanno le zanzare? Perché esistono? Sei la prima persona a cui lo posso chiedere. Veramente è necessario che ci siano? Beh, svolgono comunque un ruolo all'interno dell'ecosistema, per cui vabbè, sono predati da altri animali, e inoltre quando sono allo stadio larvale, appunto, filtrano tantissimo l'acqua dove si trovano, per cui in realtà pensiamo che abbiano anche un ruolo, insomma, a livello di depurazione dell'acqua, tra virgolette, per cui non sono del tutto inutili. Ok. Mi porto a casa questa risposta. Senti, invece il racconto risale a 8 anni fa, dico bene, il 2012. Sì. Li senti ancora quei 3 amici? Guarda, ci siamo rimessi in contatto adesso, perché appunto gli ho raccontato che avevo mandato il racconto, eccetera, per cui... Però insomma, con alcuni di loro sì, mi sento, anche perché appunto uno dei protagonisti è l'attuale marito di una mia ex compagna di corso, per cui ogni tanto ci vediamo. E loro hanno continuato a fare il percorso di ricerca? Sì, siamo un po' spersi nel mondo perché ce n'è uno a Londra, uno a Losanna, uno credo sia in Austria, uh-huh. Per cui sì, siamo un po' dispersi. E com'è finita poi? Cioè, dopo che avete fatto il pieno di benzina invece che di gasolio e la macchina si è fermata, come avete fatto? L'avete tirata fuori? Abbiamo chiamato il carro attrezzi che ci ha portato nella sua officina, ha svuotato il serbatoio, ha rimesso dentro del gasolio e l'ha fatta ripartire, ma... Sì, diciamo che nel dramma comunque, non so, mi ricordo che ho riso tantissimo in quella giornata, quindi in realtà l'abbiamo affrontata bene. Senti Ottavia, l'ultima cosa, per quanto riguarda invece l'emergenza Covid lì in Guyana francese, come ve la cavate? A che punto siete? Che livello di allerta c'è? Ma allora, ci sono pochi casi per il momento, però diciamo che le strutture sanitarie non sono proprio di eccellenza, per cui cercano di... siamo comunque confinati a casa anche noi, che cercano comunque di diffondere il meno possibile il virus, hanno ridotto molto i voli dalla Francia, però dall'altra parte abbiamo un'epidemia di dengue in corso, per cui diciamo che... Insomma, sì, è abbastanza rock and roll, insomma. Esatto, speriamo. Se non ti ammali di una cosa, speri non ti ammalarti, di non ammalarti dell'altra. Perché... La dengue arriva dalle zanzare, giusto? Esatto. E che cosa causa? Febbre molto alta? Febbre alta, dolori articolari, a volte può essere una febbre... emorragica, quindi quello l'aspetto simpatico. Certo. Senti, io ti chiederei un sacco di cose, però devo lasciarti, perché il fatto che tu sia in Guyana in questo momento mi entusiasma particolarmente, però immagino praticamente la giornata sta cominciando per te, quindi immagino che tu debba andare a lavorare. Ottavia, però ti ringrazio moltissimo per la storia, per la chiacchierata e anche per quello che fai, ovviamente, che in qualche modo servirà, perché la cosa che ogni tanto non ci ricordiamo, soprattutto qua in Italia, che quando si parla di un ricercatore che ricerca una cosa che a noi sembra bizzarra, strana, tipo quello che fai tu, quella cosa lì, alla lunga, sulla lungo o medio termine, servirà a tutti noi, quindi insomma il motivo per cui come dire, in Italia probabilmente la ricerca è anche sottostimata, secondo me è anche proprio un problema culturale, cioè il problema che, per il quale non si capisce che qualsiasi cosa stia ricercando quella persona ci servirà prima o poi, e quindi grazie mille per quello che fai. Parole sante, grazie. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. La seconda storia di oggi l'ha raccontata un amico che si chiama Dario Cerutti, a mio cugino, che è la serata di storie di Mauro, che Mauro fa a Roma, quando si può fare ovviamente, non in questi giorni. Oggi Dario è un professionista ed è un uomo esemplare, ma come molti di noi, in altri tempi, ha avuto delle abitudini piuttosto deprecabili. In questa puntata che si intitola appunto Amici miei, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nel 1997 decidiamo di affittare un camper per andare in vacanza. Siamo in 7 e affittiamo un camper da 8. Io vado al noleggio a dare il mio nome. Tutti i camper, che siano da 6, da 7 o da 8, hanno la stessa dimensione. La differenza è tutta in come sono occupati gli spazi all'interno. Un camper da 8 non ha un centimetro libero. E in 7 decidiamo di partire da Brescia e andare a fare il giro dell'Europa. Il giro comprendeva una prima tappa ad Amsterdam, poi saremmo andati a Londra e poi a Parigi. Nel 97 non c'erano i TomTom, i telefonini, internet, si andava in giro con le cartine e con tanta buona volontà. Avevamo fatto il calcolo che ci avremmo messo 12 o 13 ore. Decidiamo di partire la mattina presto e quindi facciamo notte direttamente sul camper senza andare a dormire per essere pronti alla partenza. All'epoca fumavamo tutti tantissimo e volevamo andare ad Amsterdam per i coffee shop, ma nella notte prima della partenza, prevedendo un lungo viaggio fino alla Svizzera di circa 150 km, facciamo rifornimento. Quella prima notte, però, eravamo solo in 6, mancava Luca, detto Peppo, il più scoppiato della nostra compagnia di scoppiati. Lui era un solitario e quella sera era andato a un after hour a Torino in autostop. Si presentò la mattina dopo, molto presto, con i capelli viola, senza minimamente ricordarsi perché avesse i capelli viola, né quando se li fosse fatti. Quando arriva lo faccio salire sul camper perché è un amico, oltre che il settimo passeggero, e quindi partiamo. Guido io perché sono terrorizzato dagli altri guidatori, ho fiducia solo in me stesso. Tutti gli altri, subito dopo, avendo fatto serata, si addormentano immediatamente, ma una volta arrivati a Como, a pochi chilometri dal confine, mi accorgo che abbiamo ancora con noi una piccola scorta di erba. Quindi sveglio gli altri e dico: ragazzi, cosa facciamo? C'è il confine tra 10 chilometri. Ovviamente la risposta di Peppo è: consumiamo, non è che buttiamo via tutta sta roba. Quindi in un quarto d'ora consumiamo tutto quello che avremmo dovuto consumare in un giorno intero. Arriviamo alla dogana svizzera con gli occhi piccoli e un sorriso da stupidi. Io che guido dico: tranquilli, ci penso io, vedrete, non ci diranno nulla. Alla dogana mi chiedono: dove state andando? E io dico la verità: ad Amsterdam. Bene, mi rispondono, allora scendete tutti. Io guardo dietro di me e dico a mezza bocca di non fare scendere Luca. Sono convinto di essere il più responsabile, ma sono stordito. Prendo i documenti di tutti, li consegno ai doganieri e dico agli altri di mettersi in fila davanti a loro. I doganieri leggono i nostri documenti e noi diciamo: sono io. Ma ho consegnato un documento in più, che è quello di Peppo. Lui, che dal finestrino sente tutto, spunta dalla tendina con i suoi capelli viola e fa cucù ai doganieri svizzeri. I doganieri ci fanno entrare in uno stanzino, ci dividono fra maschi e femmine e ci fanno una perquisizione completa con tanto di flessioni. Quindi superiamo la dogana svizzera, sono stati cattivissimi con noi, ma giustamente perché eravamo alterati così, cioè, con i capelli viola, cioè, ma fanno bene a farci del male. Dopo un'ora ripartiamo e sapevo di dover fare il passo del San Gottardo. Saliamo su questa montagna infinita, superiamo il passo. Una volta scesi, Peppo dice: ma non dovevamo fare il tunnel del San Gottardo? Dunque, una volta scesi, facciamo il tunnel del San Gottardo. Dopo 4 ore, ritrovando il laghetto, dico: scusate, ma sto laghetto non era quello stesso che abbiamo visto 3 ore fa? I drogati dietro mi dicono che ho ragione, che abbiamo passato avanti e indietro, da sopra e da sotto il San Gottardo. Facciamo inversione e rifacciamo di nuovo il tunnel. Stiamo viaggiando da 8 ore e siamo ancora in Svizzera, a pochi chilometri da Brescia. Ma dopo 22 ore di guida, finalmente arriviamo ad Amsterdam. Luca, che c'era già stato, dice: so io dove campeggiare. Quando il capo del campeggio ad Amsterdam ci vede, dice che è tutto pieno e non ci vuole dare la piazzola. Ma Peppo vede uno spazio abbastanza grande, vuoto, e dice che ci metteremo là. Il tipo del campeggio sembra non fare questioni e quindi ci sistemiamo. Allestiamo tutto come si deve, con ombrelloni e tavolini. Troviamo una nostra quotidianità fatta di tante canne, pasta cotta sul fornello e abbiamo anche la fontanella proprio vicino alla nostra piazzola dove lavare i piatti. Ma la mattina dopo Peppo mi sveglia e mi fa vedere che dove noi laviamo i piatti da 2 giorni, un gruppo di tedeschi sta lavando la vaschetta del bagno chimico. Capiamo che dove noi laviamo i piatti è lo scarico delle acque nere e che il nostro posto non è un posto camper proprio per questo motivo, perché è vicino a quel luogo. Ripartiamo, andiamo a Francoforte, poi a Londra. La vacanza prosegue fino a Parigi e l'ultima sera, prima di tornare, compriamo delle collanine che si illuminano con il liquido fluorescente e ci viene un'idea malsana. E annoiati perché non drogati, abbiamo rotto le collanine e abbiamo scritto sul camper Peppo Frocio, scritto sul camper luminescente, così che siccome Peppo era quello che tornava sempre per ultimo, andava alle feste eccetera, avrebbe trovato questa scritta: ah, che grasse risate. Quindi lui torna: ah, che grasse risate, andiamo a dormire. Io sono omosessuale, ma nel 1997 dare del frocio a uno era una presa in giro forse un po' scorretta, ma che si usava abitualmente fra tutti noi. Ma più che l'epiteto in sé a farci risvegliare il giorno dopo è stato il fatto che il liquido fluorescente aveva fatto reazione sulla carrozzeria del camper e la scritta era diventata rossa. Io a quel punto mi sono ricordato che quello che ci ha affittato il camper mi aveva detto: qualsiasi danno lo pagate voi. Subito penso che la carrozzeria di una parete interna sarebbe costata un sacco, per cui compriamo degli spazzolini di ferro in ferramenta, cancelliamo la scritta, ma nel cancellarla grattiamo la carrozzeria di plastica del camper, per cui sparisce il rosso, ma creiamo un solco molto evidente con la stessa scritta, Peppo Frocio. Tornati a Brescia, consegniamo il camper, lo parcheggio molto stretto contro il muro, confesso subito che abbiamo rotto il vetro sulla capote per fargli capire che sono un ragazzo per bene e che un incidente può capitare. Lui abbocca, firmiamo il documento di riconsegna e siamo salvi. Poi il tempo passa, e del camper e della sua scritta sulla parete me ne dimentico del tutto, ma l'estate successiva un giorno mi chiama Peppo, che stava lavorando in una panetteria in piazza, e mi dice: «Oh, vieni a vedere!» In piazza in quei giorni c'è la festa della Lega Nord, da cui mi tenevo abbastanza distante, ma Peppo insiste, così lo raggiungo e in piazza, dietro a un gazebo della Lega, mi fa vedere il nostro camper, in cui, nonostante sia tappezzato di manifesti, spicca molto visibile la scritta Peppo Frocio. Questa storia è una storia che ci ha raccontato, che ha raccontato Dario Cerutti, che adesso è un professionista serissimo che lavora nel mondo del cinema a Roma, l'ha raccontata alla serata di Mauro Pescio che si chiama Mio Cugino, e che appena torneremo a una vita normale andremo tutti a seguire una sera insieme direttamente a Roma al Big Star, dove si tiene ogni mese. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi ritorniamo a raccontare qui i vostri diari dalla quarantena. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Linee d'ombra. Il diario della quarantena che vi racconto oggi si intitola Un'occasione unica ed è davvero una bellissima riflessione, più che una descrizione di quello che accade nella giornata del protagonista, che in realtà è un'osservazione di quello che gli accade intorno, le persone per strada, i vicini che parlano al telefono, le persone che si salutano, che imbiancano la casa. È una riflessione su questo tempo vuoto che stiamo vivendo, sul quale tutti quanti noi abbiamo fatto probabilmente delle grandi riflessioni e dei grandi progetti. Ah, se adesso che ho tempo leggo tutti classici. Ah, adesso mi metto qui e finisco quel libro che dovevo scrivere. E poi ovviamente non è stato così, cioè non è così, o perlomeno molti raccontano, lo si vede sui social, o lo si vede chiacchierando con gli amici, come si faccia fatica ad esempio a concentrarsi per leggere un libro, a meno che non lo si facesse già, prendere il tempo a disposizione, oh, finalmente ho tempo per leggere, si fa fatica a concentrarsi, si fa fatica a portare a termine le cose. Ci sono degli amici che riescono a lavorare da casa e che mi dicono: oh, arriva la giornata e mi sembra ancora di essere in ritardo. Quindi il diario che vi stiamo per raccontare è proprio una bella riflessione su questo, sull'idea che avevamo del tempo e su come probabilmente questa idea fosse già sbagliata, perché ci troviamo in una davvero in una linea d'ombra, ci troviamo in una linea d'ombra molto spessa che sta durando da più di 1 mese e mezzo, ma che potrebbe darci la possibilità di capire qualcosa, forse, o forse anche no, forse proprio di non capire niente. come dopo una nevicata. Così si è risvegliata Cassino il 12 marzo del 2020. Un silenzio irreale, pochissime auto e ancora meno pedoni, per lo più in tute da lavoro o con cagnolino al seguito, nascosti dietro una mascherina, che camminando misurano i passi. I più, come me, sono affacciati alla finestra che osservano, scrutano l'orizzonte in cerca forse dell'abominevole uomo delle nevi. Un tizio del palazzo di fronte approfitta del tempo libero per imbiancare la stanza. Una donna cerca di ridare vita a due gerani palesemente stecchiti. È talmente tanto il silenzio che sento il rumore del mio frigorifero. Sembra il canto delle sirene di Ulisse. Mo, quasi quasi, me la faccio un'altra fetta di salame. Non riesco a vederla bene, ma da un'altra palazzina vicina sento una signora che parla al telefono, credo con la figlia, e la implora di venirla a trovare. «Sto a uscì pazza», dice, «quando mi passano le giornate da sola?» Non è il virus, è il tempo che è rallentato e non ci siamo più abituati. Noi sempre col fiatone, sempre accelerati, invece oggi c'è la neve e dobbiamo fare attenzione a non scivolare. Le auto devono camminare piano piano, dobbiamo stare a casa, chiacchierare, pensare, cucinare, chiamare un amico, scrivere sciocchezze come questa. Con calma stendiamo il bucato, senza fretta passiamo l'aspirapolvere tra un servizio e l'altro. Troviamo il tempo di scambiare quattro chiacchiere col vicino. Ma da quant'è che vivi qua? Riscopriamo la noia, la voglia di immaginare, progettare. Quasi quasi mi reiscrivo all'università, quando sarà tutto finito. Oppure andrò a Masterchef, oppure da grande farò l'attore. Quante cose vorremmo fare e pensare, e solo pochi giorni fa dicevamo che avremmo voluto dormire una settimana intera. Ma presto la neve si scioglierà e la città riprenderà a vivere, ritornerà chiassosa, irascibile e distratta. I nostri tempi subiranno un'improvvisa accelerazione da 0 a 100 in una frazione di secondo. Sarà esattamente in quella frazione che, se stiamo attenti, potremo osservare il progresso che ci ha portati fino a qua. Un'occasione unica nella storia. Facciamoci caso. Heading from city to sea, just you and me, our boots creaking quietly, we would never be here again. Watching the snow falling down, watching the city lose color. Ed è arrivata anche, purtroppo, la fine non solo di questa puntata, non solo di questa settimana, ma della storia seriale che vi abbiamo raccontato, direi in questi mesi, perché è durata un pochettino più del solito la storia che Mauro Pescio ha raccolto in questo caso, che è la storia di Anna Maria. Era l'ultima storia seriale che chiudeva, diciamo così, l'epopea delle storie seriali legate ai vizi capitali. Le abbiamo raccontate tutti e sette, ovviamente continueranno le storie seriali, ma continueranno così come tutte le altre storie che vi stiamo raccontando, riguardo a storie di confine, riguardo a storie di passaggio. Ma con la gola e con la storia di Anna Maria noi abbiamo definitivamente chiuso questo ciclo, e siamo felici di averlo chiuso con lei in questo modo. Pronto, ciao Anna Maria, buongiorno. Ciao, ciao Matteo. Senti, domanda di rito in questo periodo, come stai? Sì. Come stai quantomeno di salute, ecco? No, di salute decisamente molto bene. Ho iniziato a fare una cosa che non facevo dal 1996, cioè attività fisica. E mi sta piacendo moltissimo. Non sei l'unica. Credo che nelle case degli italiani ci siano persone con pesi elastici, materassini che non tiravano fuori da una vita. Cosa fai? Segui qualcosa su un tutorial online oppure vai da sola? Allora, ho ripreso un po' le vecchie abitudini, almeno quello che la memoria mi ricordava, per cui il tapirulan, perché nel frattempo era diventato una sorta di oggetto sopra il quale c'era di tutto, metto di tapirulan, e quindi li faccio almeno 10 km al giorno e faccio una serie di serie, per cui e ho scoperto che ho tanti muscoli, cioè fanno tutti male, che il corpo umano sì, e soprattutto quando sono doloranti ce ne accorgiamo. Sì, mamma mia. Senti Anna Maria, io voglio, e poi studi, certo, che mi sembra di capire è un pezzo fondamentale della tua vita, dal racconto che ci hai fatto. Sì, decisamente. Senti, in questo proprio vorrei partire da qua. Vabbè, avrei tantissime cose da chiederti, però tu le raccontate magnificamente nell'arco di queste settimane. Però quanto, ad esempio, lo studio del cibo e della storia del cibo ti hanno aiutato ad uscire da quella situazione in cui ti trovavi? È stato un momento fondamentale, e davvero fondamentale, il potermi confrontare anche con tutta quella parte storica, antropologica, geografica che non faceva parte della mia esperienza, della mia vita, e la conseguente contaminazione che ne è nata, perché quando poi studi un periodo, studi, non so, una contaminazione di un determinato tipo, una prima globalizzazione, diciamo, no? Per esempio, pensa allo scambio colombiano, che cosa ha portato nel nostro mondo in Europa, ma cosa ha portato anche nell'altro mondo. E quindi ti viene voglia di studiare l'altro mondo. E questo è stato veramente fondamentale, perché si sono aperti proprio anche tutta una serie di percorsi di identità culturali che sono diventate preziosissime, perché poi ti servono per riflettere, per approcciarti in maniera diversa alle altre persone, per essere molto tollerante, nel senso proprio rispettoso, e questo per me è stato davvero tutte quelle finestre, una sorta di quel tappeto volante che ti consentiva di uscire dalla finestra. Senti, invece c'è un'espressione che tu hai usato nelle prime, vabbè, noi diciamo nei primi episodi, però all'inizio della storia, che è quando tu ti guardi intorno, ti guardi allo specchio e vedi solo le macerie della casa che stavi ristrutturando. Questa è un'immagine potentissima, nel senso che sembra un film. Che cosa intendi quando dici vedevo le macerie? Cioè tu vedevi fisicamente le macerie o vedevi o vedevi una rovina generale? Io vedevo proprio l'idea della... l'impressione era proprio la rovina, letteralmente la rovina, e quindi ti vengono in mente, sai, anche tutti quei racconti che fai durante i quali racconti di guerra, scusami, che leggi, durante i quali proprio ti immagini, non so, i bombardamenti, la casa distrutta, le strade a pezzi, e poi tutto questo diventava proprio le macerie attorno a me, e vedevo proprio attorno a me macerie, cose rotte, e io rotta, cioè io non riuscivo a identificarmi come una persona intera, con una serie di identità, con una famiglia, con dei figli. Vedevo solo attorno a me tutto rotto. Io proprio, ecco, l'immagine forse più forte può essere quella di un burattino accasciato a terra. Senti, di tutte le persone, neanche più i fili. Chiaro, di tutte le persone che hai incontrato, c'è qualcuno a cui senti di dovere maggiore riconoscenza, cioè che in maniera particolare ti ha aiutato e che ha detto o ha fatto qualcosa che ti hanno fatto capire meglio devo uscire da qua? È stato sicuramente il professor Fiorellini, con il quale mi sono appunto confrontata, mi sono affidata a lui per la prima volta, perché è stata una persona onestissima, e mi ha detto anche una frase che mi ha da un certo punto di vista riempito il cuore, perché mi disse che la mia intelligenza non doveva andare sprecata, e credo che, e questo non è vanagloria, è proprio è chiarissimo, è un'analisi. Esatto, e mi sono resa conto che potevo fare qualcosa per qualcuno, dare qualcosa a qualcuno nel momento in cui appunto imparavo da me. se vuoi è la teoria dell'impostore all'incontrario. Sì, sì, chiarissimo, la conosco. Senti Anna Maria, io adesso probabilmente ti faccio una domanda delicata, nel senso che non so, i tuoi genitori sono ancora in vita, sono ancora qua, sì. Hai ancora i rapporti, in che rapporti, sì, sei oggi con loro? Diciamo che ho con i miei genitori, soprattutto con mia mamma, ho imparato a non ad essere suo ostaggio. Okay. E nel momento in perché in realtà erano degli ostaggi, cioè ero ostaggio dal punto di vista emotivo. Quindi ho imparato a comprenderla, a perdonarla. E, mio papà qualche anno fa mi ha preso in disparte e mi ha detto ci dispiace per tutto quello che abbiamo sbagliato, perché fatalità era entrata a contatto con delle persone che gli avevano raccontato tutto quello che faccio e lui ne era rimasto stupito. E, però ho detto no, probabilmente ci sarà una seconda occasione, l'importante, certo, è che manteniamo e comunque buoni rapporti, quelli sono fondamentali, ecco. Anna Maria, l'ultima cosa ho sofferto meno. Immagino, l'ultima cosa e poi ti lascio andare. Senti, tu adesso hai un'attività, sì? Hai un ristorante? No, un ristorante no, nel senso che io lavoro nei ristoranti, okay, servo per una serie di clienti il menù e sviluppo il menù, ho un blog di cucina dove racconto le mie storie, racconto i miei personaggi che mi invento, okay, e insegno sia cucina che storia e cultura della cucina, quindi in dei contesti diversi. Riesci a lavorare in questo periodo? Cioè i ristoranti sono chiusi, ma fai i delivery o cose di questo tipo? Oppure proprio le cucine sono chiuse? In questo caso è proprio tutto chiuso. Okay. E quello che faccio per loro è proprio, molti mi hanno chiesto di analizzare dei nuovi menu, e per le aziende per le quali lavoro faccio sviluppo una serie di ricette e con la fotografia, con la storia, con il set fotografico, perché poi è anche quello per le riviste, per i libri, per questo, diciamo tutto in casa. Anna Maria, grazie davvero, ricordaci anche il nome del tuo blog, così se qualcuno è curioso lo va a guardare. Certo, il blog è La Cucina di QB, il famoso Quanto Basta, quindi okay, si trova lì QB. Anna Maria, grazie davvero di tutto, è stato un grande piacere, la tua storia, grazie, è stata molto importante per noi. Grazie a voi di avermi dato questa possibilità, e anche per me è stato veramente molto bello. A presto, ciao. Grazie Maria. A prestissimo. Ciao. Si chiude così questa puntata, questa settimana di Linee d'Ombra. Io ringrazio davvero moltissimo Anna Maria per averci raccontato la sua storia, Mauro Pescio per averla raccolta. Vi ricordo che se avete voglia di risentire tutta la settimana della storia seriale di Anna Maria, la potete ascoltare domani sera alle 21.30 qui su Radio 24, oppure potete riascoltarvi tutta quanta la sua storia in podcast. Così come in podcast potete trovarvi tutti e 5 i diari del coronavirus della settimana, cioè i diari da questa quarantena, i diari da questi giorni così particolari che stiamo raccogliendo giorno dopo giorno, e grazie per continuare a mandarli. linee d'ombra@radio24.it. Fate di questo fine settimana quello che volete, oppure quello che riuscite a fare. Scriveteci delle storie, scriveteci, oppure ascoltateci, riascoltateci come e quando volete, nel tempo che avete libero e vuoto. Noi quello che sappiamo è che ritorniamo puntualissimi qui lunedì alle 15 per raccontare storie, perché rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!